siamo tutte nudi. Mi pensi, non so, amo così lontane. Questa forza di trovarsi noi. A cercare, scorrere del vento, un attimo attento. Gli occhi che ho per guardare il mondo, scopro sono anche tuoi. Volte giù un temporale, vorrei spezzare